Allora, San Giovanni Rotondo, oggi ne abbiamo 18, mancano 7 giorni il 25 aprile, cioè il giorno della liberazione. Allora, abbiamo parlato del manifesto Aleph, del progetto della trasformazione di Aleph in senso evolutivo, il passo che ci aspetta. Nella prima parte di questa nostra riunione abbiamo parlato dei tre livelli di terapia: terapia dell'io collettivo, terapia dell'individuale, terapia delle parti interne. Abbiamo visto che questi tre livelli formano un ubuntu, vanno tenuti tutti insieme, e proprio per il fatto che in genere sono tenuti separati si creano tante problematiche nei gruppi che vogliono invece lavorare evolutivamente. Ad esempio, se manca la terapia delle parti interne, come può capitare nei gruppi di meditazione, è chiaro che poi ognuno se la deve vedere con le proprie parti interne e magari non ha gli strumenti, sono quelle dell'auto-osservazione. Ma le parti interne possono essere anche molto radicate nel loro progetto distruttivo. L'auto-osservazione, sì, certamente è un ottimo strumento, ma non sufficiente. Perché poi la persona deve continuare a tenerle d'occhio queste parti, proprio perché sono tenute d'occhio e non vengono agite, e siccome hanno invece un progetto distruttivo si alimentano, e quindi la battaglia interiore può durare anni e anni senza soluzione. Allora, quello che riteniamo utile invece dal punto di vista Aleph è di poter disporre di questi tre strumenti, tutti e tre, non escludere nessuno mai nessuno. Ecco, questi tre livelli sono fondamentali affinché riteniamo un progetto evolutivo possa decollare. Adesso poi passiamo invece alle cose successive che ci siamo detti. Allora, partendo manifesto Aleph, il primo punto è meditazione. Meditazione per costruire un gruppo, un sangue è indispensabile, perché la meditazione è quel luogo dove si accordano il strumento personale e poi lo strumento del gruppo. E ci si focalizza, bisogna farlo in qualche modo tutti i giorni, possibilmente all'inizio della mattinata e prima di andare a coricarsi. Nella meditazione si sviluppa una visione aperta, non più a tunnel, una visione a 360 gradi non giudicante, e quindi si creano le premesse di uscire dall'ottusità e andare verso l'intelligenza, cioè la capacità di comprendere davvero le cose. Siccome pare che non ci siano gruppi evolutivi che abbiano nelle tradizioni, tutte le tradizioni praticano, hanno utilizzato la meditazione, la preghiera, pratiche analoghe, quindi sarebbe un atto di orgoglio, di presunzione, di mancanza di conoscenza pensare di poterne fare meno. No, non se ne può fare meno. Ok, il punto su cui ci siamo più soffermati è invece il numero 2, cioè il bisogno di contatto. È presto detto che la nostra è una società di anoressici del contatto, di persone che vivono dentro uno scafandro, e purtroppo questo porta a una depressione latente. E porta anche a una scarsa comunicazione, perché comunicazione vuol dire cum uno, scambiare doni, quindi lo dono reciproco avviene se c'è contatto, se non c'è contatto viene meno le premesse del dono reciproco, non funziona. Siamo quindi una cultura... Sì, vorrei aggiungere una cosa, Mauro, che il contatto spontaneo e sano di per sé stimola l'affetto. Sì. Ti ricordi la storia della, sì. Sì, sì. Della nuora che doveva fare il massaggio shiatsu alla suocera? Esatto, c'è quella bella storia lì, che poi possiamo richiamare eventualmente, e di per sé il contatto stimola l'affetto, è una manifestazione di affetto, sì. Ma che... Lo alimenta. Sì, sì. Esatto. Sì. Quindi è praticamente imprescindibile. Infatti, creando una società dove il contatto non esiste, se non quello stereotipato, sia con se stessi sia con gli altri, e beh, questa società è una società dove si può competere gli uni gli altri perché ci si sente separati, mm-hmm. E quindi tutte le problematiche dell'ego che conosciamo bene. Ok. L'inibizione del contatto è una conseguenza del campo dismorfico in cui viviamo, quindi ha a che fare con l'io collettivo. Le convinzioni più comuni è che il bisogno di contatto è una debolezza, che è infantilismo, che è il modo femminile, senso deteriore, o che il contatto è seduzione, manipolazione, oppure quella più comune, più diffusa, che è sessualità pervertita, è tentativo di irretire l'altra persona. Oppure che è affettività falsa. O falsa affettività, ok. Bene, quello che ci siamo detti oggi è che, con chiarezza, è che praticamente il luogo dove questo bisogno di contatto dovrebbe essere risolto è nella sessualità. Ora, la sessualità, se è così, viene caricata di un eccesso di richiesta, non può arrivare. Quindi la sessualità funziona bene se la persona è già in contatto con se stessa, è già in contatto con le persone, e in più c'è qualcosa, no? Una cosa specifica. Ma non può sostituire alla persona che disconnessa la sessualità, riconnetterle, fanno un illuminato, mi sembrerebbe. Allora, anche in questo deriva tante problematiche di coppia, in cui il partner viene investito di un compito che non è possibile. Ecco. Okay. Benissimo. Ci siamo poi abbiamo detto parecchie cose a proposito della visione a tunnel, no? Quando, che cosa significa? Che poi la mancanza di contatto porta a non avere visione, ad essere persone con una visione molto parcellizzata, oggettivata, non si guarda i sentimenti, non si guarda l'insieme, si guarda i dettagli, da cui tutte le perversioni possibili e immaginabili, che sono perversioni del sostituire alla sensazione del contatto il visivo. Al visivo uno va a vedere il minimo difetto che uno ha, e quindi la donna immagina, la donna copertina e tutte le cose che sappiamo. Quando parliamo di contatto dobbiamo distinguere questi due aspetti: contatto con sé corpo, e quindi tutte le scissioni interne. Quindi, quando parliamo di lavorare sul contatto, tutti gli esercizi che noi conosciamo, su contatto con noi stessi. E quindi la pratica meditativa può inserire tutti questi aspetti che abbiamo sviluppato. E poi contatto con gli altri. Abbiamo anche indicato che l'ego ha le sue radici nella mancanza di contatto, da cui deriva il senso di separazione, e quindi di paura, di rabbia e di tristezza. Tristezza, depressione, rabbia è sé inferiore, e quindi aspetti anche narcisistici, aspetti, e la paura porta poi tutte le forme di delle ansie e così via. Ok, una parentesi: mancanza di contatto porta alle compensazioni. La compensazione più comune è quella dell'alimentazione, cibo. Allora, la società ci mette davanti cibi più balordi possibili, che creano un loop. Cibo cattivo o in eccesso porta a non star bene davvero, perdere visione, tendere a isolarsi, dipendere dal cibo e quindi avere sempre meno contatto. Mancanza di contatto porta ad eccesso di cibo e così via. Questo è un loop che va conosciuto bene, ma non riguarda solo il cibo, riguarda tutte le forme di dipendenza. Di fronte alla domanda "io sono insoddisfatto", un buon governo deve trovare la risposta: qual è la causa? Ecco, spesso non la va a cercare nell'unico luogo dove l'ha vista, la mancanza di contatto. La persona che ha veramente contatto non ha bisogno di dipendere da nulla, sta bene, è nella gioia dell'essere. Il contatto, quando c'è veramente contatto, sei nella gioia dell'essere, sei in pace. Questo è il testo. Poi abbiamo messo alcune cose sull'attività fisica, quelle cose ripetute infinitamente, per cui senza attività fisica non abbiamo le endorfine, non abbiamo l'ossitocina, cioè ci mancano tutta una serie di ormoni o sostanze formazionali all'indostrio interno che ci predispongono o alla depressione, alla dipendenza e così via. Quindi l'attività fisica è necessaria per la salute. E poi quarto, in gruppo, leggerezza di umore, fondamentale. Tutto questo progetto porta a vivere dentro l'entusiasmo, che vuol dire in Dio, cioè nella spiritualità, cioè in un progetto evolutivo che ci dia a tutti la forza di mantenere la rotta. Okay.